nessuno in questo canale. Nessuno in questo canale. Ha detto UFO. Avanti, chi è? Ebbene, io il C. Ciao Giovanni, ebbene. Cosa che stai combinando? Niente, a casa, riposando. Stamattina lavavo al trabacco. Oh, allora oggi hai lavato e se sta così, che? E ti sta riposando. Ebbene, e ho aperto il locale di mio fratello, il circolo, e ho chiuso alle 2. Ah, ma risalvate lo sa? No, diciamo che lui sta lavorando pure, dunque mi ha chiesto la cortesia di aprire. Ah, ecco, c'è il tuo posto suo. A che ora apre la mattina quel locale? Alle 10. E la sera chiude? E la sera chiude, apre le 6, la sera chiude intorno l'una e mezza, alle 2. Di notte, ecco. Ma allora c'è lui stasera? Sì, c'è mio fratello stasera, sì. Ah, ecco. Ehi, allora hai lavorato parecchio stamattina? Insomma, così. Non è che ci fosse tutta quella gente, però già ho lavorato, dai. Almeno ti tieni in movimento un pochettino. Ogni tanto la combattire la fa bene. Bisogna muovere le gambe, Gio Mari. Lo credo bene. E come bisogna muovere? Se si addormentano e riescono tutte le acciacchi dopo. Poi c'è arrivata una certa età, poi non ha più voglia di fare nulla. Da giri tu anche durante il giorno, qualche passeggiata già te la fai. Sì, non c'è problema, andiamo a bozzo. Già va bene, e Pomponi non si è sentito. Ma l'ho sentito stasera alle 3 al telefono, però era, te l'ho detto, una notizia, e a lui dice che non le è arrivato niente, a me è arrivato sì, un messaggio. E l'ha arrivato anche lui. Speriamo che arrivi anche a lui, boh. Vabbè, dai, Gesù. Ci sentiamo dopo, Gesù, dai. Mi assento un po'. Ok, dai, va bene, domani. E me, non mi ti scende. Ha detto UFO!